already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. Call it the shoe heard round the world. Signore e signori, la storia della scarpa. President Bush during a news conference in Baghdad, this video was shown practically everywhere. Showing the sole of your shoe to someone in the Arab world is a sign of extreme disrespect, and throwing your shoes is even worse. I'm not insulted. I don't hold it against the government. I don't think the Iraqi press corps as a whole is terrible. And so... Non sono stato insultato, non credo che la scena faccia così schifo. Insomma, non capisco dov'è la sostanza della cosa, dice George W. Bush, a cui insomma un po' di solidarietà, bene o male, almeno questa volta, credo che tutti debbano indirizzare, perché sta cercando di minimizzare. C'è chi dice, lo credo, fa il tour di addio e lo pigliano a scarpate, altro che tour di addio, no? Dove dovrebbe esserci una, così, un cocktail di nostalgie, di reciproci ringraziamenti, arrivederci, di addio, insomma qui in realtà tante questioni spinosissime ed estremamente serie sono tuttora aperte e vengono lasciate tali dal presente uscente e poi volano scarpe. Il fatto è che questa piccola storia vagamente ridicola si sta gonfiando in un modo tale che, insomma, per quel minimo di intuito che abbiamo sviluppato in questo genere di notizie, è un po' imprevedibile fin dove possa arrivare e certamente potrebbe sconfinare proprio, no, dal vagamente ridicolo in qualcosa di più serio, perché per esempio gli arabi, la stampa araba, che spesso e volentieri non brilla esattamente per ironia e umorismo, questa storia la sta rilanciando pesantemente, complici tanti piccoli eventi che attorno stanno capitando. Per esempio arriva da Londra la notizia che Muntadhar al-Zaidi, questo è il nome del giornalista che ha tirato entrambe le sue scarpe a George W. Bush, sarebbe stato picchiato in carcere, riportando fratture a una mano, al costato, lesioni a un occhio e una emorragia interna. La notizia è stata data alla BBC dal fratello di Muntadhar, che si chiama Dargham. L'emittente britannica ha cercato di mettersi in contatto con le autorità irachene, ma non c'è riuscita. Poi è uscita fuori un'altra storia, anche questa vagamente ridicola, però anche piuttosto preoccupante, perché c'è un signore, un ricco saudita, ricchissimo saudita, forse inutilmente ricco saudita, visto che è disposto a offrire 10 milioni di dollari per avere anche una sola delle scarpe lanciate da Muntadhar contro il presidente Bush. Questa è una notizia che arriva dalla molto accreditata TV satellitare saudita Al Arabiya, che ha intervistato il diretto interessato, che si chiama Hassan Mohamed Makafa, ed è un ricco proprietario di immobili e di terreni nella zona di Al Asira, sud-ovest dell'Arabia, e che dice: ho i soldi pronti, li consegnerò in cambio della scarpa di Al-Zaida, che diventa più preziosa di tutti i miei beni e che sarà ereditata dai miei figli per diventare un simbolo nel nome di una medaglia per la libertà. Sai quando dicono, e ai figli che gli ha lasciato in eredità? Una scarpa. Oh, per fortuna che ci sono i buoni vecchi editorialisti del New York Times, uno fra tutti che è uno spiritosone, a noi però ci piace spesso e volentieri, si chiama Nicholas Kristof, e che ha scritto un articolo, un editorialetto molto interessante attorno alla storia della scarpa. E dice Kristof, insomma sì, è vero, George W. Bush è stato tutt'altro che un presidente perfetto, è uno che ha sbagliato molto, ma adesso forse inconsapevolmente si è messo nella situazione di poter rimediare a tutti i guasti e i torti eventualmente commessi. Come? Semplicemente, visto, no, viste le penose condizioni dell'economia americana, organizzando una bella tournée, no, in giro per paesi arabi, paesi islamici e anche un bel po' di America Latina, anche alcuni paesi dell'Europa occidentale, in un certo senso concedendo il fatto, no, che chi vuole entrare, dal momento che all'ingresso potrebbero essere fornite, no, ai partecipanti alle conferenze stampa delle pantofole, poi se è scontento può lanciare la pantofola al presidente, verrebbe messa immediatamente all'asta. I prezzi, avete sentito, partono da 10 milioni di dollari per una singola pantofola, ma lui potrebbe metterci un plus, no? Un po' un di più, potrebbe autografarle tutte. Insomma, questa è l'aria che tira intorno a una storia che, ripeto, però ha tracce poi di sensibile e meno ironica impopolarità, non tanto per il presidente americano, ma per questa voglia, no, di inesausta rivincita, gettare in un certo senso l'ultimo segno di inimicizia e di vergogna nei confronti di George W. Bush. C'è chi ha offerto lavoro al titolare del gesto. La TV privata libanese New TV ha offerto un lavoro da corrispondente a Muntaser al-Zaidi, il giornalista iracheno, lo fa sapere una agenzia americana. E ancora veniamo a scoprire che il buon vecchio nemico assoluto di George W. Bush, ovvero Hugo Chavez, avrebbe definito coraggioso, veramente con un buon gusto discutibile, il giornalista iracheno che domenica ha lanciato le scarpe contro George W. Bush. I had no contact with the governor's office, and I had no contact with anybody in the governor's office. And what I indicated last week is that... Questa è l'attesa smentita ufficiale pronunciata ieri sera alle 11 ore italiane a Barack Obama. Appropriate or related to the charges that have been brought. Non ho parlato con l'ufficio di Blagojevich, non ho avuto rapporti con lui, abbiamo fatto un'attenta indagine nei nostri contatti, nei contatti intercorsi tra il nostro e il suo ufficio, non c'è niente che possa indicare cose vicine alle accuse formulate nei confronti di Blagojevich. So I would ask for your patience because I do not want to interfere with an ongoing investigation. Siamo pronti a rendere pubblici tutti questi materiali, vi chiedo solo di avere qualche giorno di pazienza, circa una settimana, perché le autorità ci hanno chiesto del tempo per poter esaminare in chiave preliminare questi materiali prima che vengano resi pubblici. In sostanza, Obama ha provato con, devo dire, il consueto stile, le sa fare queste cose, la sua presidenzialità è un dato. Di fatto è un dato accertato, naturalmente ci dobbiamo augurare tutti che poggi su basi solide e tutti i sospetti che si vanno ora dopo ora addensando intorno a una figura chiave del suo staff, ovvero il capo del suo staff, Rahm Emanuel, ecco, è un cono d'ombra che vorremmo spazzato al più presto, perché il momento della transizione è in pieno corso e la situazione potrebbe veramente diventare preoccupante se restassero dei dubbi attorno alla storia di Rod Blagojevich, che, per chi ancora non lo sapesse, è il governatore dello stato dell'Illinois, colpevole di essere stato intercettato in alcune telefonate private, colpevole di aver manifestato l'intenzione di mettere all'asta, di vendere in un certo senso il suo diritto di nominare il nuovo senatore che prenderà il posto di Barack Obama, che va alla Casa Bianca, un diritto che è prerogativa dei governatori. Lui su questo voleva fare soldi, cumulare favori, chiedere nomine, insomma fare tutta una serie di cose completamente illecite, che adesso lo stanno mettendo davanti a poche ore da una vera e propria disfatta nella carriera personale, ma di fronte al quale Blagojevich continua a tenere duro. Non si è dimesso, non se n'è andato, continua a dire che una cosa è parlare, una cosa è fare, continua a dire che lui sa molte cose, insomma continua a, in un certo senso a minacciare, a sventolare, no? a anche pericolose allusioni, sempre in quel famoso momento delicato che è in corso. Tra l'altro pensate che Blagojevich aveva in mente una corsa alla Casa Bianca per il 2016 e tanto più già sperava di arrivarci, questo è emerso oggi nel 2004. Infatti contava su una propria candidatura a vicepresidente a fianco del candidato democratico John Kerry, quello che sarebbe poi stato sconfitto da George W. Bush nelle elezioni di 4 anni fa. Gli è andata male in quell'occasione, gli sta andando male oggi, perché ascoltate. The impeachment process is one step closer to reality for Illinois Governor Rob Blagojevich. Monday, the House of Representatives voted to form a committee to explore impeachment. During these 6 days, Governor Blagojevich has declined the opportunity. Questa è la voce di Mike Madigan, che è il portavoce della Camera dello Stato dell'Illinois, che sta spiegando che dal momento che Blagojevich negli ultimi 6 giorni non ha dato spiegazioni accettabili, la Camera dei Rappresentanti è pronta a dare luce verde alla apertura di un processo di impeachment nei suoi confronti, con l'accusa di aver tentato di vendere il seggio lasciato libero da Barack Obama. L'inchiesta, varata con 113 voti favorevoli e nessuno contrari, sarà affidato a un comitato speciale, e se questo comitato speciale darà luce verde, come sembra inevitabile, la Camera voterà se mettere Blagojevich in stato d'accusa per poi farlo mettere sotto processo nel Senato statale, quindi un procedimento piuttosto lungo, anche se gli americani queste cose sanno farle in tempi piuttosto brevi. E arriviamo alla chiusura di questa prima parte, perché vi ricordo che da pochissimi giorni, con un successo straordinario, francamente vi ringraziamo di cuore, si è aperto ad opera di uno di voi e non ad opera nostra, noi abbiamo aderito, siamo partecipanti, non siamo motore, del sito di Facebook di Jefferson Ming, che si chiama Jefferson Ming Radio 24, al quale adesso partecipiamo anche noi con la denominazione redazione Jefferson Ming e con una iconcina deliziosa che ci siamo trovati, andatela a vedere. Vi avevamo chiesto, vi avevamo sensibilizzato, chi stava su Facebook in quel momento, sulla apertura di oggi dedicata al dubitabile senso del lancio di scarpe contro un presidente uscente. Abbiamo diversi messaggi. Luca ci scrive: le scarpe di Al-Zaidi sono la vera arma di distruzione di massa, tra parentesi puzzolente, interessante ipotesi. Alessandro scrive: Bush testimonial delle famose scarpe italiane, è bello camminare in una valle minata, un po' pesantuccio questo. Giulio ci scrive: posso solo dire che quel iracheno, per quanto Bush possa meritarselo, sotto Saddam non avrebbe neanche osato alzare un dito, condividiamo al 100%. E infine Mario scrive: il giornalista, un grande peccato per la mira. È segno che a Facebook, come è giusto che sia, e come speriamo anche dagli ascoltatori di Jefferson Ming, i punti di vista, le opinioni sono diverse, ma la civiltà per fortuna è garantita. Yeah. questa è la implacabile scaletta di canzoni di Natale che vi amministreremo fino a feste compiute. Vi avevo già messo sull'avviso ieri, purtroppo sono reduce a New York, lì dovunque entri senti canzoni Natale, e allora mi son detto, perché non fare lo stesso? In fondo è Natale, cerchiamo di ricordarlo nel bene o nel male, come diceva un noto cantautore italiano, ai nostri ascoltatori, che del resto ci dicono volentieri la loro. Vi ricordo che c'è anche l'SMS per raggiungerci, 349 238 6666. Molti di voi offrono naturalmente a prezzi anche molto più popolari le loro scarpe vecchie. Capisco che la crisi è quello che è. A diversi ribadiscono che colui che ha tirato la scarpa a Bush se ne sarebbe guardato bene se lì sopra ci fosse stato Saddam. È una cosa che ha colpito molto la attenzione di voi ascoltatori. Potrebbero inventare un videogame sul tema scarpa presidente, beh insomma sì, però anche no. E poi un'ascoltatrice, Roberta, sulla Milano Venezia, credo significhi la firma, mi dice: vorrei sapere se Paolo, il grande Paolo, eroico Paolo, come si dire, emblema coccarda di Jefferson Ming nella lontana Cina, per Natale sta in Cina o viene a trovare i suoi a Venezia. Ci faremo rispondere da Emiliano, che ormai praticamente si parla quotidianamente con Palco, il filo rosso è caldissimo, ma arrivano altre notizie. Casa Bianca, il passaggio di consegne. At a news conference in Chicago, U.S. President-elect Barack Obama named his picks to head his energy and environmental team. Dunque le nomine, ne sta producendo parecchie nelle ultime ore Barack Obama e il suo team. Alcune sono molto interessanti e ve ne mettiamo a conoscenza. Sarà il democratico Ken Salazar, ad esempio, il prossimo segretario agli interni americano, ovvero il ministro del territorio il ministro del territorio, possiamo tradurlo così, nell'amministrazione Obama. Secondo quanto dice il Washington Post, Salazar, che è al primo mandato come senatore del Colorado, sarebbe l'ultimo pezzo importante, insomma, nel mosaico di Obama per quello che riguarda il settore ambiente, naturalmente, perché il ministero del territorio in quello si va a collocare dal punto di vista americano. E anche per l'istruzione è arrivato il nome, si chiama Arne Duncan, è il provveditore agli studi di Chicago, e vedete quanta Chicago, quanta Università di Chicago, quanta Harvard ricorra in questa amministrazione, perché va bene prendere in giro o sospettare dei neocon, ma insomma, se c'è una lobby politica che si va formando, per carità, con tutta la legittimità possibile, è quella dell'amministrazione Barack Obama, che triangola proprio, no, su Harvard, Università di Chicago, amministrazione della città di Chicago. Dunque Arne Duncan, provveditore agli studi di Chicago, diventa segretario all'istruzione, 44 anni, laurea, guarda un po', a Harvard, amico di Obama, ha assunto la carica agli studi di Chicago 7 anni fa, e dicono i comunicati che Duncan condivide con Obama e con Jefferson Ming la passione per il basket. He is already inspiring all Americans, young and old, to believe in ourselves. E questa vocina che dice così un po' laconicamente che già sta ispirando l'America con la propria condotta, parla di Obama naturalmente, è quella della ex bambina di Camelot, no? Caroline Kennedy, molto vicina a sua volta in questa raccolta dei seggi abbandonati, no? C'è il seggio abbandonato da Hillary Clinton che va a fare il segretario di Stato, e quel seggio per lo Stato di New York, seggio senatoriale, il governatore dello Stato di New York, è assai probabile che alla fine lo affidi a questa signora dal cognome così importante. C'è chi è un po' contrariato da questa decisione, c'è chi dice che alla fine sentir risuonare sempre gli stessi nomi nomi, no? Kennedy, Clinton, ma anche il povero Blagojevic stava dando a un Jackson, che nella aristocrazia politica nera è un nome che torna, è il figlio di Jesse Jackson Jr. Insomma, anche qui ci sono delle cose da dire e un approfondimento quando la notizia prenderà definitivamente forma, ve lo promettiamo certamente qui da Jefferson Ming. Insomma, il cambiamento quest'uomo lo ha promesso, lo sta concretizzando, ma questi nomi sono proprio cambiamento. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. Beh, naturalmente, anzi diciamo prevedibilmente, se ne vedono di interessanti sulla storia della scarpa. Se girate per YouTube ci sono già svariate parodie, giochini e quant'altro. L'Oscar lo diamo alla prima pagina del New York Post, però, che è un titolista molto ispirato. Ha composto con lo strillo Suicide Attack, ovvero non Suicide Attack, il ben più sanguinoso attacco suicida, ma lo Suicide, l'attacco scarparo, non so come dire. Tra l'altro, ultimissime dalle televisioni americane, c'è il rischio che Washington il giorno di inaugurazione si isolerà telefonicamente parlando, perché quelle 4 milioni di personcine lì sul mall per salutare l'inaugurazione di Barack Obama avranno il loro peso, anche perché penseranno bene di salutare tutti i fratelli e cugini. E tra l'altro Barack Obama arriverà in treno da Filadelfia. Una scelta così molto solenne, anche molto piaciona, se me la passate, no? Ripercorre i viaggi in treno di Lincoln, per esempio, e farà fermata nel Delaware. E chi salirà nel Delaware se non il vice, se non Joe Biden e il suo simpatico cucciolotto? Ma sui nomi del cucciolotto avete dato molto, torneremo più tardi. Tra l'altro scrive un ascoltatore che via SMS, giustamente: volevo resistere a tutti i costi alla tentazione di Facebook, ma la vostra entrata mi costringe a cedere, devo diventare vostro amico di Jefferson Ming Radio 24. Guarda, caro Giacomo, che è lo stesso anche per noi, anche noi volevamo resistere, anche noi facciamo un po' così gli snob, poi abbiamo messo l'occhio e ci siamo cascati con le scarpe. Bene, voce a un grande, forse al più grande degli amici di Jefferson Ming, il veterano dei nostri personali osservatori in Cina, si chiama Saro Capozzoli, è in diretta da Shanghai, dove da tanti anni lavora con una società di consulenza che si chiama IESA per le aziende italiane che fanno business in Cina. Buonasera, Saro. Sì, buonasera. Insomma, l'ultima volta che ti abbiamo visto qui dalle parti di Roma, prima di tutto non sei riuscito ad arrivare in studio perché avevi dimenticato, no, la possanza del traffico di Roma sotto la pioggia. Mi sembravi spaventato dal traffico romano, niente a che vedere con quello di Shanghai, vero? Ma hai mai visto una cosa del genere? Per fare 15 km ci ho messo 2 ore, quindi è indimenticabile. Non capita a Shanghai? No, a Shanghai può capitare a tratti, però diciamo, essendoci strade, almeno le sopraelevate molto grandi, sono 3-4 corsie per parte, si riesce più o meno, sono arterie molto grandi, studiate per un traffico che... studiato quando il traffico non era così intenso, loro certo. Hanno pianificato anche questo, cioè hanno previsto lo sviluppo del traffico nei prossimi anni. Infatti ci sono strade che sembrano strade enormi e lunghissime nella campagna, che io non fatico a immaginare che fra qualche anno saranno piene di macchine e di case. Ecco, Sara, io tra l'altro farei vedere ai tuoi amici cinesi le condizioni del fondo stradale di Roma dopo le recenti piogge, altro che Shanghai, temo forse una città dopo un bombardamento, è una cosa impressionante. Vedremo con che urgenza, con che rapidità e efficienza si interverrà, per questo che è anche un pericolo per tanti, no, scooteristi per esempio, come questo disgraziato che ti parla. Senti un po', vogliamo parlare oggi di queste crescenti avvisaglie di crisi in Cina, su cui i giornali italiani ormai stanno tornando con frequenza. C'è in un certo senso anche un sottile piacere nel dipingere anche da quelle parti così dinamiche del business mondiale le prime crepe che si aprono, ma dal tuo punto di vista operativo, tu ci lavori con queste cose, stanno veramente in questo modo le questioni? Diciamo, allora, nel mio lavoro si comincia a vedere un po' di conseguenze, no? Ci sono progetti che stanno per essere sospesi, progetti che diciamo stanno rallentando, però a mia sorpresa ho visto anche altri che stanno accelerando, proprio perché dato che il mercato europeo si sta fermando in qualche modo, ha dei problemi, ci sono delle aziende, specialmente purtroppo devo dire aziende spagnole, austriache, io lavoro molto con gli spagnoli di recente, negli ultimi 2 anni, stanno accelerando progetti di acquisizione per poter appunto entrare in questo mercato e incominciare a muoversi, a vendere, a produrre, però non tanto alla ricerca del più basso costo o del risparmio, ma per cercare nuovi mercati che stanno diciamo svanendo altrove. Quindi è un fenomeno che è interessante da vedere da questo punto di vista. Purtroppo, ecco, quello che succede è che ovviamente molte aziende cinesi che dipendevano dall'export stanno subendo le conseguenze. Per farvi capire, circa l'80% delle fabbriche che producono giocattoli hanno chiuso. Questo è qualcosa di incredibile, cioè ci sono migliaia di fabbriche che hanno chiuso, molte hanno chiuso anche prima di Natale, quindi non so adesso il prossimo... Pensi c'entri qualcosa il fatto che tanti paesi del mondo, insomma non ultima l'Italia, abbiano cominciato ad alzare un po', no, le antenne, i sistemi di controllo sulle produzioni che per molti anni nella quasi totalità sono arrivati in questi settori dalla Cina? Ma io voglio dire una cosa: noi abbiamo sentito certamente dei casi di frodi, casi di diciamo di adulterazione anche di cibi, eccetera. Però teniamo conto, se noi ci guardiamo in qualsiasi stanza, qualsiasi ufficio, la maggior parte dei prodotti che usiamo ogni giorno, dal computer, il telefono, sono fatti in Cina. Certo. E sono fatti anche bene. Perché? Certo. Perché sono fatti anche da aziende straniere, italiane, ma non tanto, perché non sono molte, ma da aziende tedesche, americane, giapponesi, che sono venute qui a produrre e a esportare. Quindi teniamo conto che il 65% delle esportazioni cinesi sono prodotti in aziende joint venture o aziende proprio al 100% straniere. Questo che stai dicendo è molto interessante, perché in un certo senso una volta tanto va controcorrente, no? Tu mi sembra intendi ribadire, non dico un certo orgoglio insomma della qualità del prodotto cinese, ma la decenza e una professionalità probabilmente rapportata con i prezzi di quello che in gran parte arriva dalla Cina, rispetto invece a una voce che gira ormai, che tende a bollare la produzione cinese come, non dico sinonimo di cattiva qualità, ma insomma così, di rischio da prendere. Ma io posso voglio dire che qualche anno fa, una decina di anni fa, ero pienamente d'accordo. La Cina non è assolutamente matura con la propria industria, il proprio tessuto industriale per produrre dei prodotti di qualità, ma teniamo conto che ci sono qui in Cina 600.000 aziende straniere che hanno investito, straniere di tutto il mondo, e che portano, hanno portato sia ricchezza, infatti pagano tasse, e da lì che viene anche il grande surplus, anche non solo dall'export, ma anche dalle tasse pagate dagli investitori. Ci sono 60-70 miliardi di euro all'anno che entrano in Cina, no, con investimenti. E dall'altra parte che questi prodotti vengono prodotti per il mercato cinese, che però per qualche verso in molto senso non sono, per molti aspetti non è pronto per qualche prodotto, ma vengono poi esportati in America, in la Siemens, per fare un nome, che ha fatto la sua prima fabbrica in Cina nel 1934, produce la quasi totalità dei propri beni in Cina, di quelli di largo consumo, non sto parlando dell'alta tecnologia. La Philips stessa, la Philips ha 480 espatriati qui in Cina, certo, per seguire le proprie joint venture, i propri. Quindi il fatto di gioire che la Cina sta arrancando è come darsi un po' l'alzato sui piedi, in certo senso. Ecco, certamente la qualità, in certo senso, anche da noi abbiamo i problemi che possono venire fuori dai nostri prodotti. Io sto pensando solo adesso, il primo esempio, la carne con qualche problema che viene dall'Irlanda, no? Ecco, certo. Abbiamo un sistema globale e dobbiamo considerare nella propria globalità, non possiamo prendere un singolo caso e farne poi di tutto un fascio. Grazie a Sandro Capozzi. Tra l'altro ci risentiremo nei prossimi giorni per fare una specie di speciale trasmissione bilancio cinese. Vogliamo ripercorrere insieme a Saro alcuni degli appuntamenti, dei fatti, delle notizie meravigliose, in certi casi tragiche, ma comunque significative anche sul piano globale, che sono arrivate dalla Cina, e lo faremo con una puntata speciale in sua compagnia. Tra l'altro segnalo a Saro e anche ai milanesi, in fattispecie ascoltatori di Milano, un sms di Roberto che dice: io farei vedere a voi, credo a voi in un certo senso romani, che ci lamentiamo, come è diventato il traffico proprio intorno alla Chinatown milanese dopo che è stata chiusa al traffico via Paolo Sarpi. I love those J-I-N-G-L-E bells. Those holiday J-I-N-G-L-E bells, those happy J-I-N-G-L-E B-E-L-L-S. I love those J-I-N-G-L-E bells. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow, doodle, in a one-horse open sleigh. Doodle. O'er the fields we go, doodle, laughing all the way. Doodle. Bells on bobtail ring, making our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. I love those J-I-N-G. Prima pagina. Allora, prima pagina, questa è fresca, George W. Bush in questi ultimi istanti ha dato una medaglia al una medaglia del presidente al valore civile, diciamo così, al attore che molti di voi apprezzeranno e conosceranno, Gary Sinise, uno dei migliori attori del cinema americano, soprattutto del teatro americano, per il quale è meno conosciuto, ma di cui invece è un eccellente esponente, per quanto ha fatto in favore delle truppe americane con diverse visite a Baghdad, la prima addirittura nel 2003, e anche per aver raccolto la bellezza di 200.000, raccolto e finanziato, di 200.000 kit scolastici per i bambini iracheni. Beh, tu Stefano sei raffinato e quindi citi il teatro di Gary Sinise, ma insomma credo che gli italiani lo conoscono in questo momento soprattutto per CSI. Per CSI. E poi comunque un grandissimo film di De Palma, Omicidio in diretta di una decina di anni fa, faceva un cattivo straordinario contro Nicolas Cage. Un altro chicagoense comunque. Vai. Allora, di cosa parliamo? Di notizie o del nostro Facebook, che è la notizia per noi? Siamo ormai da drogati, siamo cascati con tutte le scale. Io direi Facebook, prego. Allora, Facebook, vabbè. Intanto il sito che è nato per primo, quello Jefferson Ming Radio 24, ha superato i 320 fan. Ah. Quindi stiamo veleggiando una buona media. Abbiamo dato il nostro contributo sponsorizzando naturalmente l'opera pia, l'opera benedetta di Facebook. E nel frattempo arrivano messaggi sempre molto interessanti, alcuni anche puntuti sul discorso delle scarpe tirate a Bush. C'è per esempio Giuliano che fa una lunghissima disamina e in particolar modo sottolinea l'agilità di Bush, che ha evitato soprattutto la prima scarpa, quella sinistra, e dice: il gesto ricorda i piegamenti del busto tipici dei pesi welter e dei pesi medi, davvero agile. Soprattutto lui è un giocatore di baseball, e quello è lo swing, no, che fanno per evitare il la palla quando gli sta arrivando dritto in testa. Poi qualcuno ricorda, anzi sempre Giuliano ricorda, che a suo tempo, qualche anno fa, Berlusconi venne colpito da un cavalletto per macchina fotografica, certo, dice certo. Assai più periglioso di una scarpa. E poi una battuta finale perfetta, che dice: in Italia non sarebbe accaduto, con questa crisi ormai gli italiani al massimo gli avrebbero tirato i calzini, forse peggio. Però sono in tanti anche a sottolineare che se Bush nel bene o nel male non avesse fatto ciò che ha messo in piedi negli ultimi 5 anni, e se lì ci fosse ancora Saddam Hussein, le scarpe non ne volavano. Per quanto nella cultura araba e islamica lanciare delle scarpe è un gesto gravissimo, appunto, che può anche portare al carcere. Allora, notizie invece un po' più serie dalla Cina. Per esempio, una serie di siti web non graditi al governo cinese, che erano stati sbloccati grazie all'effetto benefico all'aria di meno censura durante le Olimpiadi, sono tornati nuovamente sotto le grinfie del governo cinese, della censura. I siti sono famosissimi, come per esempio quello in cinese della BBC, poi anche l'emittente Voice of America, alcuni gruppi umanitari come Medici Senza Frontiere, e poi siti che vengono da Hong Kong e Taiwan, i nemici storici del governo di Pechino. C'è una risposta immediata del governo di Pechino, che dice che ha il diritto di fare insomma quello che vuole, di bloccare i siti internet con contenuti a loro giudizio illegali, quelli come per esempio che parlano del Tibet, dell'indipendenza di Taiwan. In particolare il portavoce del Ministero degli Esteri dice che per esempio alcuni siti trattano Taiwan come fosse un paese indipendente, e questo per loro insomma va contro la legge cinese antisecessionismo. Ma naturalmente su questa posizione di Pechino ci sarebbe molto da ridire. Allora, la nostra programmazione musicale viene discussa naturalmente da voi ascoltatori, si chiama la implacabile programmazione di Natale di Jefferson Ming, questo è il titolo complessivo dell'opera. E Alberto chiede, dunque no, un messaggio appena arrivato: il titolo dell'ultima Jingle Bell trasmessa è quello di Frank Sinatra, caro ascoltatore senza nome, è una garanzia di qualità. Invece Alberto chiede: ma non rischiate di offendere troppo gli islamici con tutte queste canzoni di Natale? E io, scusate, mi rispondo no. Mi dissocio anch'io da questo timore. No, non pensiamo. Allora, intanto in Cina ci avviciniamo ad un anniversario importante, soprattutto per noi occidentali, anche non solo per i cinesi, perché era il 18 dicembre 1978, quindi siamo veramente a 30 anni da questo evento, quando il comitato centrale del Partito Comunista, spinto dal vento riformatore di Deng Xiaoping, abbandonava la via della lotta di classe continua e apriva la Cina alle riforme e un po' a quella via capitalistica ed economica di cui oggi si vedono nel bene e nel male i frutti. Quindi insomma si ricorrono i 30 anni di questa svolta storica. Saro è arrivato in Cina poi a distanza di tanti anni. Deng rimane in questo momento il leader più amato dai cinesi, di gran lunga più del fondatore poi della Cina Popolare, cioè Mao Zedong. Però ricordiamo insomma anche delle macchie nella carriera lunghissima di Deng Xiaoping, morto 11 anni fa per l'esattezza, perché fu lui a ordinare nel 1989 la violenta repressione di piazza Tiananmen, dove gli studenti da 2 mesi occupavano e protestavano in nome insomma di più libertà in Cina. Stanno arrivando le benedizioni di famiglia, è difficile fosse il contrario, perché quella più che una famiglia, lo sappiamo tutti, è un clan. Per la autocandidatura di Caroline Kennedy al sito senatoriale lasciato libero da Hillary Clinton, non so perché, ma a me questa non sembra per niente una buona mossa politicamente parlando. Un governatore di forza non particolarmente ragguardevole come Patterson, neo recentemente subentrato a Spitzer al governatorato dello stato di New York, in un certo senso viene fortemente spinto a dare un seggio Clinton a un membro della famiglia Kennedy. C'è qualcosa che credo molti americani non vedranno con simpatia. Arriva comunque anche la sponsorizzazione ufficiale di Kerry Kennedy, tra l'altro ben nota in Italia per frequentissime visite, e lasciatemelo dire, non a caso anche in questi giorni tutte le librerie d'America con suo nuovo libro, un saggio su che cosa significa essere cattolici in America oggi. Comunque i Kennedy, come al solito, tutti insieme. In questo 2008 della Cina ricorderemo molte cose, naturalmente quelle belle come le Olimpiadi, ma anche quelle terribili come il Sichuan. Con Saro faremo questo resumé, certo, tra pochi giorni. Tra le cose negative che sono arrivate dalla Cina quest'anno, c'è naturalmente l'intossicazione del latte e la melamina, quindi un po' un generale allarme, certo, sui prodotti, certo, sui cibi prodotti realizzati in Cina. Ebbene, la Cina ha vietato ufficialmente 17 sostanze nocive negli alimenti. La lista naturalmente nasce sulla spinta dello scandalo del latte e la melamina. Tra queste c'è addirittura l'acido borico utilizzato negli insetticidi, che viene aggiunto ad alcuni alimenti per dar loro elasticità. All right, you chipmunks, ready to sing your song? I'll say we are. Yeah, let's sing it now. Okay, Simon. Okay. Okay, Theodore. Okay. Okay, Alvin. Alvin. Melensi, come peggio non potremmo essere. Abbiamo istituito anche una sigla natalizia che state ascoltando in sottofondo alla mia vociona, che poi è quella di Stefano Pistolini, con me al mio fianco Emiliano Enrico, in regia Alessandro Cheppini a Roma, Pietro La Corte a Milano. La mail la conoscete bene, la mail jeffersonming@radio24.it. rido perché in realtà c'è, bisogna anche andare su Facebook ormai. Su Facebook l'ascoltatore Daniel ci chiede come faccio a trovarvi. Guarda Daniel, noi non siamo i migliori a spiegarlo, pensiamo di essere un gruppo, e comunque se tu nella ricerca, nel search di Facebook, digiti Jefferson Ming Radio 24, arriviamo, è facile in fondo. Andiamo in replica stasera alle 9, come tutte le sere. Ci sentite in diretta domani alle 4, a risentirci attorno alle 4, appunto, qui su Radio 24. Very good, Simon. Very good, Theodore. Alvin, you were a little flat. Watch it, Alvin.